Napoli stanotte si è svegliata, la gente non faceva che gridare. Tutta la città si è spaventata, sapete che è successo verso il mare. Questa notte un bastimento sconosciuto, il Vesuvio è rimorchiato e se l'è portato via. Oh mamma mia, oh mamma mia. Tutta Napoli si chiede cosa diavolo succede, il Vesuvio se n'è proprio andato via. Oh mamma mia, è sparito e nessuno sa dov'è. Napoli, quanta gente vedo piangere, perché tu mia bella Napoli non canti più. Guardano, da ogni parte tutti corrono, il Vesuvio ancora cercano, ma non c'è più. Questa notte un bastimento sconosciuto, il Vesuvio è rimorchiato e se l'è portato via. Oh mamma mia, sarà forse nell'America del Sud. Verso Napoli è tornata e con grande cortesia. Oh mamma mia, il Vesuvio è riportato nel suo mare.